Faccio partute. Ok. Che faccio? Bruno, scena 4, prima. Azione. In realtà continui a spiegare. Vai, vai. Vado di seconda. Vai di seconda. Devi dirmi la parte dove io mi devo alzare. Ah, non ti devi alzare. Ah, sì, devi alzare. Ah, sì, vabbè, la facciamo, la riprendiamo da qua. Quando è che devo chiudere io? Boh, in verità puoi anche non alzarti. Se facciamo dopo l'inquadratura da sola. Quando è che devo chiudere? Però è una figata di Padu, che si alzava e faceva la cadere la cosa, capito? Quindi magari se la fa mentre... Ah, magari facciamo la mentre il coso cade. No, se no, capito, esco dal di là, capito, proprio da dietro che non mi si vede mentre parlate. E la faccio cadere così, tutto okay. Molto spontaneo. Dai. Poi la fai cadere, poi facciamo un'inquadratura della cosa che cade, così abbiamo un momento di pausa. Su questo oggetto. È vero. Se no vado in giro con questa croce. Cerchi di mangiarla. Uroboro già esisteva nel 600. Cosa? Uroboro. Non lo so. Penso di sì. Sì, esatto. Il dubbio c'è Uroboro sul braccio. Il capitalismo è un Uroboro placcato d'oro. Il mio è un tatuaggio. Dai. Sta sulla pelle. Non mi metto più posto. Quando è che stacco? Quindi mi ridirmi la parte lì. E che senso stacchi? Devo togliere. E però la fine alla scena. Scusa, ah, sì, si capisce quando lo finiamo. Cioè, ci alziamo. Va bene. Quindi esco dal di qua e non mi alzo. Ok. Sicuro? Sì. E poi fai cadere e poi ci fermiamo. E ripetiamo. Bruno, scena 4, seconda. Azione. La realtà non continua a esplicarsi della materia universale. Tutte quelle... Cambi il numerino perché ogni volta. Ogni volta, cioè. Ogni volta che faccio schifo. No. ma è normale, cioè parli di materia universale, sì. Cioè no, no, sia complicato. Ma non è per quello, è che semplicemente non lo so. Ma vai tranquillo, non mi impappino. Va bene. Scusate. Allora. Bruno, scena 4, terza. Azione. Ci sei, Giuse? Sì. Bruno, scena 4, quarta. Azione. La realtà non continua a esplicarsi dalla materia universale. Tutte le cose sorgono da questa materia. Prendiamo come esempio... Portalo a questo bicchiere. Tu direi che condividono lo stesso intelletto? Sì, su questo sono d'accordo. Ma condividono anche il fatto che vengono dalla stessa materia. È un sostrato interminabile che ha con sé tutte le forme possibili. È opera dell'intelletto divino. E... Scusa. Dai, c'eravamo però. C'eravamo. Sì, sì, sta andando bene. Devo dire scusate, giusto? O niente. Scusate. Dici me scusarmi. Sera. Sì, va bene. Ma anche con la voce me scusarmi. Dai, ci starebbe un sacco. Mi scuso Ermi. No, fallo meno sciolto, capito? Mi scuso Ermi. Più impappinato. Mi scuso Ermi. Non so. Poi dobbiamo farci il remix. Mi scuso Ermi. Giuro pesante. Dai. Ma è francese sto libro. Bruno, scena 4, quinta, azione. In realtà non continua a esplicarsi della materia e tutte le cose vengono da... ho detto la materia. Ah vabbè, poi rifacciamo. Dai. Vai, cioè perché comunque prima ci abbiamo proprio dato, quindi ci siamo, quindi... Sì. Dai. E ci dobbiamo un attimo riconcentrare. Sì. Aspetta, aspetta. Ok, vai. Bruno, scena 4, sesta, azione. In realtà non continua a esplicarsi della materia universale e tutte le cose vengono da questa materia. Prendiamo come esempio Bortolo e questo bicchiere. Tu direi che condividono lo stesso intelletto? Sì, su questo sono d'accordo. Condividono anche il fatto che vengono dalla stessa materia. È un sostrato interminabile che ha con sé tutte le formule possibili. Pesante tutte le formule. Bellissimo. Dai, Ceri. Dai, è stato il possibile che ti ha fatto dire formule. Tutte le formule possibili. Ce l'avevo già il possibile prima di dire formule. Dai. Dai, dai, dai. Ci siamo, ci siamo. Ma cos'è sborra questo? Bortolo al suo posto. Ma l'hai visto? Mi fai rivedere un attimo la tech? Com'è che si... Mi fai rivedere un attimo la tua? Eccola. La labbra? Ce l'abbiamo tutta la tenda. Ok, dai. Wow. Dai. Questa è la volta buona. Bruno, scena 4, settima. Azione. La realtà continua a esplicarsi della materia universale e tutte le cose vengono da questa materia. Prendiamo come esempio Bortolo e questo bicchiere. Tu direi che condividono lo stesso intelletto. Sì, su questo sono d'accordo. Condividono anche il fatto che vengono dalla stessa materia. Questo è un sostrato interminabile che ha con sé tutte le forme. È opera dell'intelletto divino che le forme prendano vita. Mannaggia, Amaro! Daghe, daghe, daghe. Buona. Buona. Dai. Dai. Poi io l'ho detto un po' come un cane, però no. Ma infatti adesso sono qui da vedere anche voi. Vai, vai, cerca di tirare il pin qua che abitolato sul foro, me lo giuro. Aspetta. Ma raga, ma tra poco si scassa, guarda lì! Sì! Guarda! Dai, tagliere la N. Facciamo un... Eh? Tagliere la N. No, dico... Dove? Maron. Diretto qui. Ah, tanto adesso rifacciamo in qui... Qui dici magari Naccia Maron e poi vedo quale tenere. Adesso okay. Facciamo un'inquadratura del... Giuse! Vieni un attimo, cioè se hai quel coso che hai fatto cadere... Vieni un attimo. No! No! No. Fai cadere lì e io il quadro. Poi io qualcosa da mangiare? Ah, devo fare una professione. Ma tu ce l'hai ancora davanti? Eh? Devo fare il lancia maron. Ce li hai? Sì, adesso facciamo. Sì. C'è anche il buono, li posso andare. No, no, perché il vino è per il classico. Dalla vino e vino, luce e vino, la vino. Ghiera, di Pellini. Cosa? Peppino tra luce e vino. No, bene. C'era anche quella specie di piccola filastrocca lei notare che c'era tra la roba lì, se non sbaglio. Se tra luce e vino, mi pare. Il materasso. Anche i 99 posti parlano. Cioè, a Napoli siamo ora a terra luce. In Italia ci sono un 600. Sì. Avremmo dovuto fare anche la prima. In teoria era così. Ci mettiamo. Io che ci fa? No. Devo spostare dietro. Ah, che cazzo. Poi si può prendere la zappa. Scusa, ho fatto vedere il portale. Ah, poi. Posso bicchiere? Merda. Te lo dico con la croce in mano. Posso bicchiere in questo giovane? Dai, grazie. Salam aleikum. Aleikum salam. Secondo me con questa si apre, con la potenza. Con la potenza di Gesù Cristo. Com'è la prima? La potenza di Gesù Cristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Non dire la terra pura come se fosse una maniglia. Vero. Se scondiamo sto no, no, qui sopra per accompagnare il no, cazzo. Cazzo è. E gli avè. Dillo. E Robert? Vabbè, pensavo che non mi sono io avrei questo caso la Chieres? Come la Ceres? Non posso nemmeno. Ma anche tu l'hai fatto la commissione. Se mettete questa come oggetto di scena in commissione al film. Ma non esisteva. Babbo Natale. Ti ricordi quando l'abbiamo studiato con la Zanzani che era San Nicolaus in Germania? Natale Agip edizione 2003. Da portare a casa. C'è tanta roba da poter portare a casa. Ma giuro. Comincia. Comincia. Ah, bravo. Testa di faccia di. Lo parlo solo? Sì. Sì, ok. Per te non finirlo tu? No, sì, anche. No, no, non lo finisco. Puoi anche poi muore. Peso. Dai. Davide sbomballato. Davide anarchico. La vita anale. Sono pensato anch'io, ti giuro. Fai fumare il Davide. Buon vino. Dici come il diavolo. Coron, coron. Comunque, ieri Giuse ha spaccato i sassi. Aspettavo solo uno che lo facesse. E c'ho anche il video. Magari facciamo lo sticker col video. E lo mandiamo nel gruppo. Pesa. A tutti. Anzi, tutte. Non si fa niente. Entro io nel gruppo, lo mando e niente. Vai, vai, vai. Sì, sì. Un giorno spacca i sassi. No, entro, fantastico. Mando il coso e esco. Entro, spacco, esco, ciao. Entro, spacco i sassi, esco, ciao. Grazie. Sto vedendo ce n'è più. Ce n'è più. Lo scritto lo sghisca anche quel Ponte Santo. Ha preso piede. Ah, così, cioè stavo pensando di andarmene a prendere una ieri bomboletta, ma poi non so che dove metto. Si nasconde. La nascondi nel mio garage. Dentro il cazzo che l'ho nascondato, nascosto l'erba. Nasconduto. Ma cos'è che avevo detto prima? Stai attento. Non mi ricordo, ma è troppo bello. Ci vorrebbe la testa di qualcuno qui. Di un nostro compagno. Voi cosa fate se trovate una testa umana? Eh? Cosa fate se trovate una testa umana? Gli apro la bocca. Ci infilo il pisello. La pace ciao. Pisello. Mi ricordo che Rebecca Valgimini mi fece questa. Sì, l'occhio. Stava da tutti. Ho l'internetto di Rebecca Valgimini. A 8 anni. Libero l'occhio. Comunque, io, cioè, tu adesso fai il Naccia, cioè riprendiamo da Naccia Malone. Naccia Malone. Arrivo. Ah, devo farlo anch'io. Oh, stai. Un attimo. Questa è la quinta. È la quinta. Sì, è la quinta scena. Ah. Ciao. Ok, non scendere più in basso. Switch me. Sei un attaccabrighe. Nacciamaro! Sei un attaccabrighe. Bam! Cameraman. Nel sound. Avevo scritto Davide. Davide. Peso. Davide. Davide. Ma questo lo usano le suore per... per picchiarsi i bambini? No. Davide Mazzini. Mazzini. Davide come... Magari lo usano... Fai di cognome Mazzini. Sì. Oh, dai. Davide. Almeno il cognome Davide. Non l'ho sbagliato. Davide sembra boh. Il lo sciamo. Un generale iraniano. Davide. Ma cos'è sta roba? Davide Mbulk. Ho capito, sto libro questo era tipo 100 e passi. Ehi, ma ed è pure francese. Di roba lì se la vendi ci fai, non lo so. Fai il mercatino. Fai il mercatino dell'usato per... Qui, capito? No, okay. Esatto, e tutti qua. Fate un giro con la cosa. Fate un giro a Ponte Santo. Un prezzo. Fate un tentativo a aprire la porta. C'era la manica davanti. Sì, serio. Bruno. Peso. L'ho visto io. Ha ha ha ha ha ha. David. Bravo, ti la canzone di Gianna Morandi. Gianna Morandi. Forte. Allora, ripassiamo prima di... Dai. L'ultima volta. Nacciamaro! Non ammetto bestemmie in casa mia. Ah, boh, mi dispiace, Mocenì. Solo che... Poi Marò, poi anche se magari... Ah, poi dopo Marò facciamo una pausa. Che mettiamo un po' di risate. Anche se prima non ci ho pensato, beh, risate è messo a cazzo. E... Poi Marò, io faccio... E ti dico, non ne metto cose in casa mia e poi facciamo una pausa. Ok. Farti una domanda? Perché ti facciamo una pausa, però? Lo stiamo facendo tra virgolette come vuoi tu. Sì. Dai. Sì. Quindi, cioè, nel senso io pensavo sarebbe stato molto più difficile in verità. Dovete vincere. No, vincere no. Come no? Facciamo un soggiorno a Napoli, rega. Esatto. Soggiorno a Napoli. Ma per quante persone? Perché magari recitano in 30 persone in un coso, capito? Glielo danno a due soli, così strippano, capito? Boh, sì, vero. Quindi, dai. Proviamo. Se lo danno a uno solo, boh. No. Boh, se... Cioè, io non so nemmeno se ci sarò. Boh, non credo, perché comunque ci sono per gli studenti, capito? Quindi credo che... Boh, più di uno le faranno. Boh. Vediamo dell'università di Napoli. Speriamo, ma lo giuro, magari ce lo danno tutti e tre. È tipo balla da Dio. Così non mi devo pagare il biglietto per giù. Dai, non perdiamoci in ciance vari. Cianciole. Ma soggiorno nel senso che si paga anche il biglietto per scendere? Paleda. Ah, mi informo. Allora, sti cazzo. Beh, anche perché non penso vinceremo. Quindi teniamocelo nel cuore. Ma lo fanno gloria. Tutti su Angelo Bruno. No. Cioè voi non ci sa chi lo fa. Angelo Bruno. Angelo non lo so, Bruno. Mi viene da Angelo Bruno. Bravo! Sarebbe che parla su Angelo Bruno. Ci pensavo l'altro giorno. Ma giù. Chi fa l'Angela Bruno? Angela Bruno, glielo chiediamo. Ho scritto una sequenza su di te. Comunista. Sarebbe sburo. Sì, ma tanto. Casa Bruno la chiama. Nacciamo Bruno sì, io. Bruno sì. Che effettivamente è quello che è. Nacciamaro! Non ammetto bestemmie in casa mia. Allora, vabbù, Mocini, mi dispiace. Comunque, mannaggia. Solo che ho visto un nano lebroso nei bassi fondi di Praga con le mani nere che dormiva con la faccia nella solina ingoppa pastiera della Pasqua dell'89. E comunque i miei sensi sono allertati più verso il disgusto quando vedo... Brumotti, sto per dire. Brumotti. Sono in bici. Vestito da bicicletta. Gestalt Brumotti. Esce da lì. Immagini. Minchia, lo piglia zappato in testa. Lo rincorro questo bastone. 100% Bortolo. Un pochino. No. Non lo so. Ma sai che è la cosa visto. Che mi ricordo meglio di quella sera? Ecco. Anche io. Non posso fare più saluto da servista, cazzo. Perché? No, è la battuta di uno di Brooklyn Nine-Nine che non mi ricordo. JJ. Ah. Ah, è vero che gli... Che gli tagliavano le dita. No, non posso fare più saluto da servista. Passo. Cercati tutto. È proprio un potere questo. Sei a sciaccarella. Sciaccarella. È duro. Sciaccarella vuol dire figo napoletano. Ah, boh, mi dispiace, Mocini. Ma solo che ho visto un nano lebroso nei bassi fondi di Praga con le con le mani nere. Con le mani nere che dormiva con la faccia nella sua urina in coppa là. In coppa là. Sì, poi queste parti lunghe dille anche molto lentamente, così, cioè se ti aiuta come cosa. No, tanto... semplicemente no. Che a ricordarmi. Dante. A Bobocini, mi dispiace. Vabbè, non ti prendo. Cioè, no. Naccia Marò. Non ammetto bestemmie in casa mia. A Bobocini, mi dispiace. Ma ho visto un nano lebroso nei bassi fondi di Praga che dormiva con la faccia della sorella con le mani nere in coppa alla pascuetta. Dell'89 era. Ho detto in coppa alla pascuetta dell'89. Ah. Davide Mazni, visto dell'Iran. Lo giuro. Ci dirige Bruno. Scusate. Potete così. In realtà stavo fuori male anche noi. Fuori male. Solo che ho visto nelle latrine dei bassi fondi di Praga un nano con le mani nere che... Nano con le mani nere? L'ho scritta lui, che cazzo è? Ma che cazzo è? Un nano con le mani nere. Un nano lebroso con le mani nere. Un nano lebroso con le mani nere, scusa. Che dorme con la faccia nella sua urina. Puro duro. Puro duro. Puro duro. Una merda. A Bomocini mi dispiace, solo che nelle latrine nei bassi fondi di Praga ho visto un nano con le mani nere, un nano lebroso con le mani nere che dormiva con la faccia nella sua. Un nano nero con le mani nere. Con le mani nere. Un nero lebroso con le mani nere. Le mani in aule. Ti immagini Shaquille O'Neal con le mie mani? Proprio bianche. No, nere, ma piccole. Con le mani di un bambino di 3 anni, Shaquille O'Neal. Che schiaccia. Come un tirannosauro. Stiamo un attimo volando. Andando così. Non dovevo accenderlo con Joy. Io sono fatto duro da Ma io normale. Normegna. Io normale, sono fatto duro da ubriaco. Non è bello. No, no, ubriaco non lo sono tanto. Però un po' sì. Scusa, sta guardando. Ho detto queste mie cose. Come dice nano nero. Cerco di mantenere un nano nero di fianco. Intonata. Ok, con intonata faceta. Intonazione faceta. Cioè ironica. Ah, ok. Sì, proprio okay. Faceta. Fa la scena. Tanto di aceto. Ah, boh, Mocini, mi dispiace. Solo che nei bassi fondi di Praga ho visto un nano lebroso con le mani nere e Marco mi fate ridere. È la forza della mia scrittura. Beh, no, mi ha fatto ridere lui che Dio ha detto fatto 10 euro. Ho visto bene. Disturbati. Ma com'era il Francazzisti Anonimi, era quel canale YouTube? Mi sa che è stato il mio primissimo canale YouTube. Cioè non il mio, però me l'ha fatto vedere mio cugino Niccolò. Come fa VJ? Fa VJ è il primo che ho visto io. Fa Ah, buon, quindi mi dispiace. Solo che nei bassi fondi di Praga ho visto un nano lebbroso. No, basta, scusate. Fava gay. Potete andare da un'altra. Dai, vai. Non vale, fava gay. Non vale. Io vorrei accattare qualcosa. Dai, mi scusare. Boh, Cini, mi dispiace. Solo che nei bassi fondi di Praga ho visto un nano lebbroso con le mani nere che dormiva con la faccia nella solina in coppa alla pastiera della Paschetta dell'89. E comunque i miei sensi sono allertati. Sono allertati più verso il disgusto quando vedo Bortolo. Mi dà l'esistenza di un minimo intellettuale. Equivalente a quello dei Sassi. Ma scusa, non eri tu il primo a dire che tutti gli uomini sono uguali? L'altra volta hai perfino lanciato un broccolo su un mio caro amico per difendere gli indiani d'America. Punto 1, e questo è il motivo per cui io sarò sempre attuale. Punto 2, non siamo nemmeno... Non abbiamo ancora prove che Bortolo sia un uomo. A scopo didattico, Mocelli, ti faccio una domanda. Che cosa hanno in comune Cristo e Bortolo? Che cosa? Ti arrendi già. L'ho detto, tu ti fermi sempre prima del dovuto. Giuro, come Bruno. L'universo con Copernicano. Vai. Giuro, Bruno. Se in quello che dici ci sarà anche una sola virgola fuori posto. Non parlarmi di virgole, Mocini. Non mi sta a parlare di virgole. Boh, te lo spiego io. Sia Cristo che Bortolo cercano di conciliare l'affinità. Finitudine. La finitudine con l'infinità. Ah, però finitezza invece, perché prima, cioè dopo il finito. Il finito con l'infinito. Il finito con l'infinito, ah. Comunque finitezza con l'infinità, se vuoi parlare. Non parlo di me, vabbè, te lo dico io. Sia Cristo che Bortolo cercano di conciliare il finito con l'infinito. Cristo, che era un tristo, scusami la musicalità, cercava di conciliare l'infinità di Dio... l'infinità di Dio, quello vostro, quello da Brumeggio, con la finitudine umana. Bortolo mette insieme, senza manco sapere quello che sta succedendo intorno a lui, l'infinità della sua vortigine. Ah, della sua vortigine, della sua vertiginosa e vertiginosa. L'infinità della sua vertiginosa vortigine. L'infinito dell'unico infinita come perché vedo aspetta, ecco perché non leggo un cazzo. Scusa. La Brumeggio, perdonami così. È la finitudine umana. Bortolo mette insieme senza manco sapere quello che sta succedendo intorno a lui. La sua vuotaggine, infinita come l'universo, con il suo essere presumibilmente un uomo. Mi pare tu stia uscendo un po' fuori tema. O geni, un discorso sull'infinità e sull'uomo è difficile che esca fuori tema. Daghe. Sì. Calzerunga. Li facciamo? Sì. Aspetta, vediamo che sono. Sono le 16.57. Fino a quando... Boh, ho capito, non ci devo essere per forza, ce la posso mandare anch'io da parte... Però comunque era meglio se andavo lì, semplicemente. Però ormai è iniziato un quarto d'ora, mezz'ora. Nacciamaro! Ok, vai. Ma Bortolo stava qua. Sì, quindi dopo lo mettiamo qui. No, ciao. Non ammetto bestemmie in casa mia. Mi devo fermare, cazzo. Mi devo abituare. Tanto io poi ti parlo poco sopra e... Quindi si sente poco. No, ciao. Non ammetto bestemmie in casa mia. Ah, boh, vieni, mi dispiace. Solo che... I bassi fondi di Praga... No, nelle latine dei bassi fondi di Praga c'era un nano nero lebbroso. Pesante. Solo che nelle latrine dei bassi fondi di Praga c'era un nano lebbroso con le mani nere che dormiva con la faccia nella sua urina. Eppure i miei sensi sono allertati più verso il disgusto quando vedo Borto. Mi dà l'esistenza di un minimamente intellettuale, è equivalente a quello dei sassi. Ma senti, su questo posso anche essere d'accordo, ma non eri tu a dire che tutti gli uomini sono uguali? Hai perfino tirato un broccolo sopra ad un mio caro amico per difendere gli indiani d'America. Sto per dire non mi parlare di Mirko Emofini. Punto 1 è per questo io sarò sempre attuale. Punto 2, abbiamo ancora le prove che Bob Bortolo sia un uomo. A scopo didattico, Moceni, ora ti faccio un questionario, affanculo. Ora ti faccio un indovinello. Che cosa hanno in comune Cristo e Bortolo? Che cosa? Niente già, te l'ho sempre detto, tu ti arrendi sempre prima del dovuto come l'universo copernicano. Giuro, Bruno, se in quello che dici c'è anche una sola virgola fuori Non mi posto. parlare di virgole, Moceni. Non mi stare a parlare di virgole. Boh, te lo dico io. Bortolo e Cristo cercano di finire il. No, Bortolo e Cristo sono esseri mostruosi che cercano di. Hai preso quello di Irving Welsh, che è quello di Trainspotting. Boh, ho letto AC Daus. Dello scrittore di Ah, Trainspotting. sì. Lo volevi tu? Nel caso te lo chiedo. Ah, prendilo pure. No, no, vabbè. No, dai. Io ti ho preso il coso di poesia di Emily Dickinson. Giusto. Se ti rubo la commedia. È di Giuse. Ah, sì. Quale? Questa. Ah, quella è cazzo sbura. Capito. Costa. Se la prendi si fa io. Comunque ci sta No, venendo. la Ci sta venendo, cioè ci stiamo stiamo arrivando. avendo. Stiamo venendo. Sta Anche. vero, ma se lo doni alla biblioteca tipo. Lo prendiamo con tutti. Sì. Sì, ma. Sì, ma Sì. chiedere soldi. No. No, però non ti danno i soldi. Quindi fai l'opera di bene. Gli chiedo 30 giorni per restituire le cose. cazzo. Sì. Mio padre ha Essere lavorato un cliente con elite. Dante. Wow, no, no, no, no. Di lì se vuole in prestito la Divina Commedia. Chiedi. Quello che ha detto padre, in Dagen. pratica. Però glielo dici. Non lo so, sarebbe un potere strano da assumere, però in Te teoria lo fai vedere potresti se ci farlo, è sono tutte tuo. le pagine. Se andavi poco tempo fa c'era proprio la mostra su Dante. Sì, Esodo. Hai capito, tu arrivi lì così. Vai lì. Ma di che anno Non è, ce Pensano l'ho che tu cercato di sia far parte della vedere, mostra con il. Generalmente alla fine, forse. ma. Ci ho guardato. Ricci. Chi è l'amore non mi sembra. Iniziamo. Se all'inizio non è all'inizio, forse la Nacciamaro! Non ammetto bestemmie in casa mia. Ah, boh, scusa, Imogeni. È che. Nei bassi fondi di Praga, nelle latrine, ho visto un nano lebbroso con le mani nere che dormiva con la faccia nella sua urina. Non è mille. Eppure i miei sensi sono allertati più verso il disgusto quando vedo Borto. Da. L'esistenza di un. Minimo intellettuale. Come equivalente a quello dei sassi. Ma non eri tu il primo a dire che tutti gli uomini sono uguali? L'altro giorno hai perfino tirato un broccolo sopra un mio caro amico. Amico. Amico per difendere gli indiani d'America. Vedi che parto con un parlami di. Punto 1 è per questo che sarà sempre attuale. Punto 2 abbiamo ancora prove che Bortolo sia un uomo. 1909. Pesante, duro. MCMX. Dal Di 1909. cent'anni, rega, sto libro. Sine. Giorno peso duro. La divina commedia. Ci saranno anche promesse Leggitela. sposi. Ma sai che io l'avevo iniziato a leggere alle medie? Perché ce l'avevo andata, ho detto dai. Gatto. A scopo didattico, immagini ti faccio un indovinello. Cosa hanno in comune Cristo e Bortolo? Che cosa? Mamma. Arrendi già. L'ho sempre detto, tu ti arrendi prima del dovuto come l'universo, come il Nigga. Te lo giuro, Bruno, se in quello che dici ci sarà anche solo una virgola fuori posto... Non parlarmi... Porco Dio, scusa. Non parlarmi di virgole, Mocini, non parlarmi di virgola. Vortolo e Cristo hanno in... sono... Vortolo e Cristo sono esseri mostruosi. Hanno in comune il fatto che vogliono... che vogliono conciliare il finito con l'infinito. Cristo, che era un tristo... Perdona la musicalità. Fa un culo la telecamera. Non esiste. Noi quando facciamo le foto uno è così. Non parlarmi di virgole, Mocini, non parlare di virgole. A buono te lo dico io. Cristo, che era un tristo, non era qua. Cristo e Bortolo sono esseri mostruosi. Hanno in comune il fatto che vogliono conciliare il finito con l'infinito. Cristo, che era un tristo, perdonami la musicalità, cerca di conciliare l'infinità di Dio, quello vostro, quella brumiccia, con la finitudine umana. Cerca... e Bortolo... Perché mi perdo? Invece Bortolo mette insieme, senza manco sapere quello che sta succedendo intorno a lui. No, giuro, sto sconcentrato, aspetta. No, comunque ci siamo. Se vuoi, in mezzo, in questa ultima inquadratura, magari la facciamo tutta di fila e magari taglio delle parti in mezzo quando... Quando sbaglio? Sì, vai. Magari se ti impappini su una piccola dai, cosa. Dai, mi dici abbandono. Com'è la tecnica? Ma dove vai? Cioè, nel senso, so dove... Cioè... A casa. Adesso facciamo l'ultima ripresa? Dai. Cioè, poi magari... Che senso? Devi iniziare da... Ah, sì. Poi magari puoi anche uscirtene e poi stare... Figlia la zappa dietro. E escitene. Cioè, l'uscita. Dai. Più la zappa mentre ne esci. Dov'è il Chuck? Sto tipo così in piedi per qualche secondo. È la scena finita prima. Tieni il... Comincia con Naccia Marò. Ci siamo. Bruno, scena 5, prima. Azione. Naccia Marò! Non ammetto bestemmie in casa mia. Ah boh, scusami, Mocini, mi dispiace. Solo che nei bassi fondi di Praga, nelle latrine, ho visto un nano lebbroso con le mani nere che dormiva con la faccia nella sua urina. Pure i miei sensi sono più allertati verso il disgusto quando vedo Bortolo. L'esistenza di un minimo intellettuale equivalente a quello dei sassi. Vabbè, su questo posso anche essere d'accordo, ma non eri tu il primo a dire che tutti gli uomini sono uguali? Hai perfino tirato un broccolo addosso ad un mio caro amico per difendere gli indiani d'America. Aspetta, mi si sta spegnendo il telefono, scusa. Oh, cioè, adesso, fino al mio... Adesso magari faccio un taglio e sì, vai avanti. Ci sta. Cioè, però se boh è brutto così. Sì? Secondo me sì, perché poi si vede che quando si cambi inquadratura, se vuoi fare un taglio, perché... Va bene, allora cambiamo inquadratura. Mettiamo... ma nel mezzo del discorso... Mettiamo un'inquadratura di Bortolo perché viene insultato. Va bene, faccio l'inquadratura a Bortolo. Vabbè, dopo gliela faccio anche io. Ma se la rifacciamo direttamente, che secondo me ci mettiamo pure niente. Tanto la sappiamo, vabbè, la prima. Vediamo. Io ma sta ancora registrando? Devo rimanere, cioè, no. Devo stare di nuovo qui a prendere la zappa. Ecco. Io la zappa è. Per uno, scena 5, seconda. Aspetta, fatto. Per uno, scena 5, seconda. Azione. Naccia Marò! Non ammetto bestemmie in casa mia. Mocini, mi dispiace. Solo che Nelle latrine dei bassi fondi di Praga ho visto un nano lebbroso con le mani nere e dormiva con la faccia nella sua urina. Eppure i miei sensi sono più che allertati verso il disgusto quando vedo Bortolo. Dall'esistenza di un minimo intellettuale, equivalente a quello dei sassi. Vabbè, su questo posso anche essere d'accordo, ma non eri tu il primo a dire che tutti gli uomini sono uguali? Hai perfino tirato un broccolo addosso ad un mio caro amico per difendere gli indiani d'America. Punto 1, questo è il motivo per cui io sono sempre attuale. Punto 2, non abbiamo nemmeno certezza che Bortolo sia un uomo. Ti faccio indovinare lo scopo didattico, Moceni. Cosa hanno in comune Cristo e Bortolo? Che cosa? Un bacio tuo crocifisso. Ah boh, ti arrendi così presto come l'universo copernicano, prima del dovuto. Giuro Bruno, se dici una qualcosa che ha anche solo una virgola fuori posto... Non parlarmi di virgole, Moceni. Mi sta a parlare di virgole. O te lo dico io. Oh, Bataclan! Sì. Merda. Vabbè, non parlare di virgole, Moceni, poi... Vabbè, te lo spiego io. Visto che Bortolo sono esseri mostri... Questo è il mio discorso lungo. Questo è duro. Magari mi puoi inquadrare mentre faccio il discorso. Da dietro, da più vicino. Io, ah sì, da Babbo in poi. Io questa te. Babbo Moceni, non mi parlare di virgole, Moceni. No, Moceni non ti. Ah? Non mi parlare di virgole e poi Babbo. Babbo no, e poi non mi parlate di virgole di nuovo. Non era mio. Sa che vado io. Vabbè, ne facciamo uno in cui. Cioè, zoomiamo un pochino su di te. Bella. Buona fortuna. Bella fortuna. Che cazzo ho studiato? Cioè, prova adesso, ma cosa vuoi che studi io? Oggi è stato difficile la scienza. Cioè, ma... Cioè, è fattibile come cosa? No. Hai preso scienza? In spagnolo. Il sistema digestivo e il bolo alimentizio. Sì, tengo. Cae nell'esofago. Aspetta. Si tornerà qua. Llega all'intestino. Si tornerà. Da solo. Con una macchina. Così prendi una macchina per sfondare quello. Ciao. Ciao. Oh. Ciao. Ok, vieni a vedere. Tu quindi adesso sei uscito comunque dalla... Mm-hmm. Adesso facciamo... Magari... Metti là. Un pochino... Cioè, tieniti tipo la testa normale. Ecco, con la testa normale. La tengo su. Cosa fa il segno? Così. Guarda bello anche su. Da dove devi iniziare quindi? Da. Se hai visto che Bortolo sono esseri mostruosi. Da Babbo Moceni. Te lo spiego io. Ah. Cioè non parlare. Sì, dopo non parlare di regole c'era. Sì, dai. Dai. Non parlarmi di Moceni, non parlarmi di. Babbo non so. Ah, e poi. Quindi questa qui è la parte finale e poi i sorridi. C'è il sorriso. No. Poi tu mi pare tu stia uscendo fuori tema. Voglio venire un discorso lì. Sì, sì, vabbè, ma io posso dirlo anche fuori campo perché. No, tanto, però magari diciamo, mentre parlo togli lo zoom, capito? Ma se me è peso perché si dovrebbe muovere la telecamera un po' così. Peso. No, però cioè se io te lo dico fuori campo. No, più che altro bene. Perché, capito, poi non ci sta il secondo zoom. Ah, ma così qui non è zoomato al massimo. Ah. È solamente fino a un certo punto. Quindi adesso gli dico che quando dici quella cosa, verso la fine faccia così che. Ok. E poi secondo me se il sorriso lo fai con l'inquadratura che magari si muove anche un pochino, e poi si ferma, spacca come cosa. Dai. Bello. Ce l'abbiamo. E adesso siamo a questa distanza verso la fine, quindi dico io voglio Cristo. che era un triste. Fuori campo, io sono fuori campo in questo momento. Visto. Gli dico, non... Cerco di continuare. No, dico, di Dio. L'ultima frase, che è, quando si parla dell'uomo e dell'universo non si esce mai fuori tema. Fai un favore, puoi vedere se si vede il telefono se tolgo la bottiglia? No. Perfetto, così e... mi riempio la bottiglia mentre... Dice, parlando dell'uomo e dell'universo non si esce mai fuori tema. A un certo punto lui sorride e fa tipo il suo, un sorriso che fa lui. E mentre lui sorride e fa questo sorriso, tu alzi un pochino la telecamera e lo e ci zoom sopra. Anche se si vede un pochino così va bene, cioè. Si vede che mi versa il vino così normale. Dai. È proprio una bottiglia seicentesca. Quindi io adesso. Va bene. Dai che. Beddo. Quindi quando sorride faccio lo zoom. Facciamo scena 5. Comunque dagger ragazzi. E poi dobbiamo fare anche le inquadrature qua. Intorno. Ho capito. Ah sì, anche qualcuno su. Scena 6. Sì. Take one. Take one. Ok, mi pare tu sia fuori tempo. Vedi se si vede? Un po' più a destra. Può andare. Vado. Lo faccio io. No, faccio io. Scena 6, prima cosa. A voi te lo dico io, Mocini. Sia Cristo che Bortolo sono esseri mostruosi, perché cercano di conciliare l'infinito con l'infinito. Cristo, che era un tristo, perdonami la musicalità, cercava di conciliare l'infinità di Dio con la finitudine umana. Dio con lo vostro, con la brumeggia. Bortolo, senza manco sapere quello che sta succedendo intorno a lui. Ci sei, bro. Stai spaccando. Ma troia, ma serio. Feso. Me la stavo sentendo anch'io, però. Mi sono proprio scordato quello. Ma ci sei, bro, ci sei. Dai, aspetta devo un attimo di libermi. Anzi no. Lo riverso. Già. Dio. Questo c'è. Ci sta? Beh, in caso stiamo facendo un corto. Cosa? Qui. E scena 6, seconda. A voi te lo dico io, Mocini. Lo dico io. Sia Cristo che Bortolo cercano... Terza. Non mi ricordo come ho fatto io. Cercano, anche tentano, cioè è lo stesso. Speso il 20 giallo. Ci sta? Scena 6, take 3. Ma boh, te lo dico io, Mocini, te lo dico io. Sia Cristo che Bortolo sono esseri mostruosi, perché cercano di conciliare l'infinità con l'infinito. Dio merda. No, la finitezza, il finito con l'infinito. Poi devo ripeterlo, suonava bruttissimo. Questo lampeggia rosso proprio qua. No. Dagger. Allora fammela ripetere prima una volta prima. Oh, te lo dico io, se visto che porto sono essere mostruosi perché tentano di conciliare il finito con l'infinito. Cristo che era un tristo, perdonami, sono l'infinità di Dio, quello vostro, quello da brumeggio, la finitudine umana. Borto lo mette insieme la, senza manco sapere quello che ci sta sbagliando. Lui, infinita dalla sua vuotaggine, infinita come l'universo, con il suo essere presumibilmente. Sto dove sto prima, vero? Eh? Sto dove sto prima. Ok. Un pelo della destra, in basso, non manca un pelo, a posto. Scena 6, take 4. Vabbè, Mocini, te lo dico io. Sia Cristo che Bortolo sono esseri mostruosi e che tentano di conciliare il finito con l'infinito. Cristo, che era un tristo, perdonami la musicalità, cerca di conciliare l'infinità di Dio, quello vostro, quello da Brumeggio, con la finitudine umana. Bortolo, che senza manco sapere quello che sta succedendo intorno a lui, mette insieme la sua vuotaggine. Porco Dio! Ma ci sei, ci sei, ci sei, ci dà la sua vuotaggine. La sua vuotaggine, ma boh, non lo so, capito? L'infinità della sua vuotaggine è infinita come l'universo, capito? È tutta altra cosa. Ok. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, ci sono, perché sennò perdo la concentrazione. Perdi la reputazione. La concentrazione. No. Scena 6, take 5. Ah, uomo, ce ne te lo dico io. Sia Cristo che Bortolo sono esseri mostruosi, perché tentano di conciliare il finito con l'infinito. Cristo, che era un tristo, perdonami la musicalità, cerca di conciliare l'infinità di Dio, quello vostro, quello da Brumeggio, con la finitudine umana. Bortolo, senza manco sapere quello che sta succedendo intorno a lui, concilia l'infinità della sua posaggine, infinita come l'universo, con il suo essere presumibilmente un uomo. Mi pare tu stia uscendo fuori tema. C'è un discorso sull'infinità e sull'uomo, è difficile che esca fuori tema. Sei sicuro? Ho rimpicciolito anziché. No, dai, allora facciamo solamente. Boh, aspetta, guarda come. No, no, rifacciamola perché l'ho detta di merda all'ultimo. Come è uscito? Come si calma? Però adesso è finito. Ah, ci abbiamo messo solo 6 minuti. Come si fa? Lei così. No, così. E lì sta ancora registrando il telefono. Non vedo mai senso. Esatto. Mm-hmm. 58 minuti. C'era anche Davide. Marco, sto leggendo, dai. Questo è il penultimo. Esatto. Dai, allora facciamo solamente lo zoom, che gli zoom è proprio nervoso. Ma ci arriva nel proprio. No, vediamo quanto arriva. Perché ma se rifacciamo la scena l'ultima volta. Ah, vuoi farla? Oh, dai, rifacciamo la scena. Perché non ho riversato il vino apposta. Sì, quello di prima era proprio bello, eh. La prima? Sì, quella di prima. Boh, a me la prima mi è piaciuta, mi sembra più una toma anche all'ultimo. Cioè, quella prima ti è piaciuta, quindi? No, la prima. Ah. Che ho improvvisato, più o meno. Sì, è vero. Comunque proviamo questa take, poi se non va ci teniamo quell'altra. Com'è? Non ci sei dentro, vai, è ancora più destra. Vai. Scena 6, take 6. Ma boh, ma cinite, lo spiego io. Sia Cristo che Bortolo sono degli esseri mostruosi. Perché cercano di conciliare il finito con l'infinito. Cristo, che era un tristo, perdonami la musicalità, lui cerca di conciliare l'infinità del... No, dai, ci teniamoci quella di prima, mi sono rotto il cazzo. Perché mi stavo già imbrogliando. Ah, quindi. Facciamo... lo zoom. Vai. Ma zoomone è anche proprio dissociato. Mi devo girare e sorridere o... Ok. Mi devo girare e sorridere oppure devo guardare diretto e sorridere? Ok, no, girarsi sì, e guardi e sorridi nella maniera in cui avevi descritto. Ok, perfetto. Devo dire l'ultima battuta? Lo rendiamo la scena 7? Peso. Va. Vai, Chuck. Bru. Un pochino più su. No, sì, va bene. Vai. Bruno, scena 7, take 1. Ok. Proviamo un'altra veloce. Che hai fatto? Ho usato il bastone nelle palle. Oddio, pesante. Vero. Pesantissimo. Ok. Vai. Scena 7, take 1, Bruno. Ok. Dai. E giù lo faccio così. No, quello è il frame. Ah, penso. Vai. No, terza parte. Ottimo. No, è ben dietro. Peso. Dai. Ah, così che è il primo. No, it's fine.